Ecco, dopodiché, invitando qui di nuovo Gabriella Zarri e Mario Rizzo, se c'è, possiamo chiedo al padrone di casa quanto, mezz'ora? Beh, certo, questo, la stanchezza, il freddo montante, forse, se non è una mia impressione. Comunque, se c'è qualcuno, non lo voglio scoraggiare, ecco, con questi accenni alla stanchezza e al freddo. Indubbiamente carne al fuoco ce n'è molta, anche per tutte le relazioni, in particolare anche per Ma anche le il fuoco. ultime due, che sono quelle. Benissimo, anche il fuoco ci piace. Allora, se ho ben capito, la clausura finisce per risultare un vantaggio per la giurisdizione episcopale, insomma. Cioè, sostanzialmente è un'operazione dai risvolti sociali, ma che si riflette. E questo era ecco. Allora, Garbellotti, vescovo e principe. Beh, è un problema da risolvere decisamente. Per quel che mi riguarda, rispetto. Sì, però appunto c'è questa doppia figura: il vescovo che deve visitare e il principe che deve mantenere l'ordine. Come si concilia? Non so. Giustamente mi era stato suggerito di bisognerebbe un po' meglio guardare ad esempio dove la documentazione riguardo a uno specifico tema è conservata. Cioè, se un organo emanato dalla figura del principe, tra virgolette, oppure più del vescovo. Fare un distinguo. Però è un problema, insomma. Tenere forse anche conto che i rapporti tra queste due figure, diciamo così, che poi sono unite in un'unica persona, non sono sempre uguali, ecco, cioè forse c'è Sì. anche questo problema, cioè che muta anche questo. Sì, mutano e poi bisognerebbe anche chiedersi come veniva anche recepito, insomma, nello specifico da queste confraternite, cosa vedevano? Più il principe, più il vescovo non si ponevano il problema, insomma. Bene. Sì, decisamente. Volevo fare una piccola aggiunta. Vescovo, principe e legato papale, come anche ha un po' accennato la dottoressa Garbellotti. Vale la pena tenere presente che quando nel maggio dell'82 Ludovico Madruzzo riesce a visitare compiutamente i battuti, lui lo fa con le facoltà non semplicemente vescovili, ma con quelle di legato. Al riguardo faccio notare che il legato non è Fontana, Fontana è il datario del legato, no, l'errore non risale a lei, l'ho segnalato in una recensione al libro della Nubola. Comunque la cosa interessante è che lì è proprio con le facoltà di legato che Madruzzo visita i battuti, cavandosi una soddisfazione, potremmo dire, dopo le difficoltà, e questo è anche tipicamente tridentino. In quanto svolge con facoltà papali romane questo atto di giurisdizione vescovile. Una domanda per Gabriella Zarri. E dalle visite emerge anche la modificazione del rapporto sulla vita comune nei monasteri, in il tema della clausura come viene affrontato, perché c'è l'impressione che il processo di, diciamo, chiusura delle monache, a un certo punto nel corso del Cinquecento e ancora del primo Seicento, è relativamente, diciamo, debole, nonostante gli inviti, eccetera, ma ha degli effetti sociali molto larghi, perché c'è la frequentazione spesso dei parenti, ci sono queste monache che vivono con le serve quando stanno bene, voglio dire, hanno disponibilità anche finanziarie, eccetera. Poi sarà effetto della crisi, sarà effetto di un processo di clericalizzazione, poi queste sono costrette a fare la vita comune e a trovarsi invece che nella camera da sole e nella camerata, e c'è una certa differenza, e questo nel Seicento in varie realtà succede. Mi domando se si verifica, è possibile leggere qualche cosa del genere dalle visite che hai preso in esame. No, dunque, io credo che questo processo sia invece estremamente differenziato e che è abbastanza difficile poter fare un discorso di ordine generale, ma se un discorso di ordine generale si può fare è che invece queste non praticano la vita comune fino a tutti i 700, cioè di fatto praticano la vita comune solo i monasteri osservanti, cioè quelli che nascono fra 5 e 600 dopo la riforma tridentina. Gli altri continuano il sistema delle celle, quindi il sistema delle celle significa praticamente avere una vita semi-indipendente, molto spesso anche con un proprio peculio o con l'aiuto economico più forte da parte delle famiglie, e non c'è quindi la cosa dei dormitori. Si diffonde il refettorio comune, questo sì, però non è ancora vita comune secondo appunto le ordinazioni tridentine, non è che siano completamente prive di un peculio, appunto di denaro che possono amministrare. Quella che viene chiamata vita comune praticamente è mettere in comune il denaro di ciascuna e affidarlo alle casse della superiore, questa è già la vita comune. Quanto poi al mangiare insieme in refettorio, questo si diffonde abbastanza, sì. Sì, per questo. Il dormitorio, no? Sono pochissimi i monasteri che hanno, anche dalle viste pastorali, emerge spesso, almeno quelle che io ho visto direttamente, addirittura il sistema delle celle, cioè vengono chiamate con nome, la cella delle tali, perché poi se le trasmettevano di famiglia in famiglia. Quindi la vita comune è una formula molto vaga che significa normalmente che mettono i loro soldi in una cassa e che la badessa ha le chiavi e quindi deve dare il permesso per la spesa. Però appunto, tranne poche eccezioni di monasteri, diciamo così, osservati. Sì, certo. Giovanni Rossi, ricercatore di diritto comune e giurisprudenza qui a Trento. Da storico del diritto, mi sembra molto interessante tutto questo dibattito, soprattutto per quanto concerne le ultime due relazioni, perché mi sembra interessante soprattutto sotto questo aspetto. Qui siamo di fronte, con questo fenomeno delle visite pastorali, non a caso disciplinato dal Tridentino, sostanzialmente un fenomeno moderno, di epoca moderna. Ma guarda caso poi tutto ciò si complica molto con riferimento alle fonti giuridiche che poi dovrebbero regolare tutto ciò e che non sono affatto semplici, semplificate e semplificabili. Cioè, non a caso, da quello che risultava, bisogna fare riferimento a tutta una serie di fonti che si intrecciano, si sovrappongono, fonti speciali che poi impediscono alle fonti generali di applicarsi, ad esempio, atto costitutivo dei locapia, ad esempio, e ancora consuetudine. La consuetudine, si suol dire, è un fenomeno che ha il suo massimo splendore nel Medioevo, alto Medioevo, ma ancora diritto comune. Guarda caso, qua ancora, a quanto sento, nel 5, nel 600, tutta questa vicenda si svolge ancora moltissimo sulla base di consuetudini. E ancora, ribadisco, atto costitutivo. E ancora, probabilmente, non conosco poi così a fondo questi temi, ma probabilmente quello che veniva detto dalla dottoressa Garbellotti relativamente alla sottrazione, per dir così, alla interpretazione canonistica delle norme del Tridentino, probabilmente veniva fatto in un'ottica di, maggiore certezza, perché in questa maniera si incomincia a dire ormai alla fine del Cinquecento qua i giuristi complicano la vita, perché interpretano in maniera diversa, diversificata, diverse interpretazioni, si sceglie quella migliore di volta in volta e quindi c'è maggiore incertezza. Ma in realtà, a quello che sentivo, probabilmente si ottiene un effetto, almeno all'inizio, opposto, perché sottraendo, in realtà, la communis opinio non è poi tutto sommato così incerta. Ci possono essere communes opiniones contrapposte, ma insomma, sostituire alla interpretatio canonistica una giurisprudenza che poi, per forza di cose, almeno in un primo periodo, è sulla singola controversia e quindi non propone una regola valida anche per le altre controversie, complica le cose inizialmente. Per cui, ecco, da storico del diritto mi sembrava molto interessante notare come ancora nel 5 e nel 600, in questa vicenda, si protrae una situazione che è tipicamente di diritto comune, complessa, complicata, che ci restituisce una realtà sfaccettata e quindi per questo anche non tanto facilmente interpretabile anche per lo storico nei vari aspetti. Mi chiedevo se poteva essere un'interpretazione così d'emblema che potesse passare, ecco, anche da parte di chi ha studiato molto meglio queste cose. Grazie. Beh, c'è niente da aggiungere, nel senso che effettivamente non è lei l'unico che ha notato questo. Già Prosdocimi aveva notato che il tema del diritto comune è molto presente proprio in questa tematica, che è effettivamente complessa. C'è un problema un po' diverso per quanto riguarda la costituzione del diritto pontificio, diritto nuovissimo che viene con le congregazioni romane, che emettono delle sentenze su casi singoli che teoricamente non dovrebbero fare giurisprudenza, poi in realtà, voglio dire, la fanno di fatto, perché la curia tiene conto di quello che ha già deliberato in alcuni casi, tant'è che poi nel corso del 6-700 ci sono le raccolte e manoscritte e a stampa proprio di queste decisioni prese dalle varie congregazioni. Però il tema continua e ritorna fino a che non si arrivano a decisioni più complessive che in qualche caso vengono sanzionate da concordati. Il caso di Napoli è emblematico, ma in altri casi concordati non ce ne sono. Ci sono gli interventi delle magistrature dello Stato che vanno però ancora, credo, studiati. Io ho solo rilevato la presenza, diciamo, di queste magistrature, ma uno studio sulle singole magistrature e la loro attività, almeno così, non mi risulta. Ci sono degli ottimi studi sopra, ad esempio, penso alle scuole grandi veneziane, che sono state abbondantemente studiate, con tutta una serie di riferimenti anche di diritto, però le singole magistrature, la loro modalità di intervento, le questioni che vengono portate loro di fronte, eccetera, che so, a Venezia come in Toscana o in altre parti, direi che è ancora da vedere. Poi ci sono i casi in cui le magistrature magari non ci sono, e lì la cosa si complica in modo ancora ulteriore. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich auf Deutsch spreche, aber es wird übersetzt werden. Nur einige Sätze. Ich habe in Deutschland mich fast 8 Jahre lang mit Visitationsakten beschäftigt und ich habe nie gefunden, dass soziale Einrichtungen kontrolliert werden würden von den Bischöfen. Ich sehe einen Grund dafür, und zwar sind die Hospitäler und andere solche Einrichtungen entweder direkt in der Hand des Bischofs, wie zum Beispiel das berühmte Julius-Hospital in Würzburg, oder es handelt sich um kommunale Einrichtungen oder aber um Einrichtungen der Klöster, also immer um Institutionen, die sich sehr heftig dagegen wehren, dass der Bischof kontrolliert. Das wollte ich nur sagen. Danke. Insomma, no, è lo stesso caso come stamattina, che l'esperienza, diciamo, tedesca offre un quadro abbastanza diverso, perché queste istituzioni come appunto ospedali, dice il dottor Lang, non sono state mai controllate in una visita pastorale da parte del vescovo, sia perché siano direttamente sottomesso al vescovo, sia perché siano istituzioni comunali direttamente, che non hanno niente da fare con la Chiesa, o diciamo anche, se ho capito bene, anche l'istituzione degli ordini, insomma anche qui una netta differenza, cioè, e io mi chiedo personalmente, però aggiungo adesso, questo e non è cosa ha detto il professor Lang, se visto anche che il professor Ziegler, che abbiamo notato queste differenze, se la Kirchenvisitation tedesca, su cui abbiamo parlato ieri, sentito ieri, è la visita pastorale di tipo italiano, se posso dire così, siano veramente la stessa cosa, insomma, no? O se siamo da fronte a fenomeni abbastanza diversi, no? Beh, ci sono delle diversità. D'altra parte, gli stati italiani non sono gli stati tedeschi, non sono gli stati dell'impero. È vero che le Heilige Stiftungen hanno delle caratteristiche ben precise, sono sottoposte agli organismi comunali. Io ho presente il caso bavarese, sono sottoposte certo a organismi comunali, ma anche a interventi del principe in vari casi, direi, così come le visite pastorali tedesche e bavaresi, ad esempio, sono promosse dal principe e casomai c'è una cogestione del vescovo, anzi quando va il vescovo deve andarci con i commissari del principe, questo è sanzionato nello stesso concordato del 83, che poi appunto porta queste conseguenze. È anche vero però che, e qui il professor Lang potrebbe forse aggiungere qualche cosa, che andando a esaminare i questionari di visita conservati negli archivi diocesani o altrove, nei questionari di visita ci sono molte, molte domande che sono evidentemente molto simili anche alle questioni italiane. Il problema è l'autorità che promuove la visita e dove si estende, e fin dove si estende la visita. Perché, ad esempio, visite anche a monasteri ci sono in qualche caso. In Italia le visite ai monasteri sono molto più rare e difficili. I questionari poi di visita, io ho in mente quelli bavaresi, vedono poi rifluire modelli che sono ampiamente circolanti. Ad esempio il modello del Ninguarda è un modello che si ritrova in una delle varie coppie tranquillamente a Salisburgo, come nell'archivio diocesano, nell'ordinariato Kif di Monaco. E quindi i modelli circolano. È anche vero che poi bisognerebbe vedere la stratificazione di questi modelli e le modificazioni, perché i modelli, i questionari assumono poi forme diverse. E poi le preoccupazioni politiche, perché le visite bavaresi del 5, ad esempio, hanno il problema. Si potrà discutere o meno del, come ricordava Lang, del numero dei concubini, ma sta di fatto però che il problema dei concubini è ben presente in primo luogo al duca, oltre che agli esponenti ecclesiastici, così come i libri, la presenza di libri nelle inchieste degli anni 60 e nel fondo di religione sono delle inchieste abbastanza ricche, proprio di indagini sui libri. I libri, è chiaro che ci sono anche delle vicinanze. In Italia le inchieste sui libri ci sono, e le fa il vescovo però. Beh, brevemente posso dire due cosine. Allora, per quanto riguarda gli ospedali, penso che in Germania, per quel po' che ho visto, non c'è quell'ambiguità di fondo che c'è, almeno che c'è qui in Italia, di queste strutture che sono appunto intermedie tra la società religiosa e quella civile. Questa ambiguità viene risolta piuttosto presto, perché, se non sbaglio, già dal XIV secolo c'è questa comunalizzazione degli ospedali, quindi il problema è risolto, non rientrano più nella giurisdizione vescovile e lui non è dovuto a visitarle. Per quanto riguarda il tipo di visita, italiano e tedesco, io credo che, penso che la dottoressa Nubola sia l'unica che, o forse quella che può rispondere meglio a questa domanda, visto che nel suo saggio, che uscirà prossimamente, negli atti del concilio, il concilio di Trento e il moderno, tratta appunto di questi argomenti. Basta. È stata evocata la dottoressa Nuvola, sì, che però non c'è. Comunque devo dire che probabilmente il freddo ha avuto un effetto corroborante, sì, sulla stanchezza, perché la discussione è stata estremamente ricca e vivace. E quindi chiudiamo. Ah, benissimo. No, io chiedevo soltanto, perché quando ho sentito il nome di Pacheco mi si sono drizzate le orecchie, insomma, ecco perché. Cioè, è un personaggio del mondo ecclesiastico, così, uno dei personaggi dominanti, insomma, in tutta la scena alla metà del secolo, insomma. Quindi veniva da pensare, ecco, la visita o l'esperienza appunto ecclesiastica, la carriera ecclesiastica di questi personaggi, ecco, ha portato nella visita statale, diciamo così, ecco, una certa, insomma, ha avuto un apporto, diciamo, in questo sviluppo della visita statale, insomma, o no, oppure non è percepibile, o è solo indiretto, così a buon senso affermare che appunto i chierici al servizio della monarchia hanno portato dentro. Sì, ecco, no, tra l'altro, se posso rubare un minuto proprio, adesso per non tediare più di quanto non abbia già fatto prima, in relazione anche a quanto, per esempio, avevo osservato stamattina il professor Mazzone, che immagino poi sarà rimasto probabilmente abbastanza deluso da quello che è stato presentato nel pomeriggio, anche a quanto si diceva con il professor Turchini. Vorrei spiegare, e poi mi riaggancio a questo, anche quella fase introduttiva della mia esposizione di questo pomeriggio, cioè in che senso io non ho ritenuto di procedere a una comparazione diretta tra le visitas che ho studiato più direttamente, peraltro con un'ottica non ecclesiastica, perché questa non è la mia formazione, oggi per me è una prima assoluta, diciamo, in questo campo, e invece le visite pastorali o le visite ecclesiastiche in genere. È chiaro che ci sono sicuramente alcuni aspetti che si possono sviluppare e che in qualche misura penserei di sviluppare per, ad esempio, per il testo scritto, cioè ad esempio si possono vedere i questionari, perché così come ci sono dei questionari per le visite pastorali, ci sono anche dei questionari non strettamente vincolanti, ma comunque il visitatore, questo io non l'ho detto per ovviamente ragioni di tempo, ma il visitatore generale giunge a Milano dove si reca con dei questionari molto precisi che variano a seconda delle istituzioni e delle magistrature. Altro aspetto che per esempio si potrebbe sviluppare e che può essere direi interessante, almeno nella mia ottica di, tra virgolette, non ecclesiastico, è la visita generale come strumento non solo di repressione appunto e di disciplina, ma anche proprio come strumento di governo, come strumento di informazione, e presumo che si possa immaginare qualcosa di simile, ovviamente anche, cioè ovviamente non lo so, questo me lo direte voi, però mi par di capire che si possa utilizzare, avere un pensiero anche non troppo dissimile su certi aspetti della visita pastorale, cioè immagino che la visita pastorale serva anche entro certi limiti per conoscere, per avere informazioni e per poter gestire una diocesi, no? Quindi da questo punto di vista senz'altro ci sono degli aspetti che possono essere sviluppati. Io sicuramente non credo di essere, per formazione, come diceva giustamente il professor Turchini, credo che chi viene come sottoscritto da studi di tutt'altro genere in parte manchi, pur con un qualche sforzo di buona volontà, di alcune categorie che invece chi ha una formazione ecclesiastica può naturalmente ritrovare più facilmente. Detto questo però, e comunque diciamo mi impegno ad ampliare questi spunti brevi nel testo scritto. Detto questo, io non ho ritenuto di fare una comparazione sistematica, perché le origini, le genesi delle due visite sono completamente distinte. Ecco, in questo senso dicevo che sono in qualche misura incommensurabili. E tra l'altro su questo ho avuto, come dire, il conforto anche di alcuni amici e colleghi che hanno lavorato sulle visite, alcuni come per esempio Massimo Giannini, che ha lavorato sulle visite partendo proprio invece da un interesse di tipo ecclesiastico, in questo senso. E naturalmente quello che mi chiedeva il professor Prodi penso che possa aiutarmi a spiegare invece l'ottica prescelta, cioè non una comparazione sistematica, ma vedere quanto, e non è poco, c'è di, tra virgolette, ecclesiastico. È chiaro che si tratta di una categoria grezza che sto usando qui, ma tanto per intendersi, di cultura ecclesiastica, c'è in questo istituto che ritengo importante, della visita in generale e poi della visita generale in modo particolare. E quindi questi addentellati molto forti con l'Inquisizione, che ritengo molto importanti, e questo aspetto che a me interessa parecchio, anche se magari non l'ho sviluppato a sufficienza, ma appunto di questa classe dirigente, di questa classe di servitori e dello Stato e della Chiesa, che in particolare, non solo, ma credo in particolare nel contesto spagnolo, viene molto utilizzato. Ecco, appunto, quindi il Pacheco, ma poi tra l'altro oltre a questi tre che per ragioni ovviamente di brevità mi sono limitato a citare, ci sono molti altri visitatori, cioè non dico la totalità, ma la grande maggioranza dei visitatori sono di formazione ecclesiastica. Questo perché probabilmente c'era una formazione che era quella che e anche un background, come dire, professionale, che era quello che serviva per un istituto che appunto era simile alla Inquisizione. Poi vi erano quegli aspetti economici che richiamavo, cioè ovviamente chi era canonico e poteva godere di prebende anche consistenti, perché alcune, questo io non l'ho detto per appunto brevità, ma alcune di queste di questi benefici erano assai cospicui. Ecco, si trattava di benefici tra i più consistenti della Castiglia, e quindi questo consentiva alla scusate consentiva alla finanza pubblica di praticamente non gravarsi con gli stipendi del visitatore, e fidando invece nel godimento, in base a quelle trattative che c'erano con Roma, di queste prebende. Ecco. E più in generale direi proprio che è un po' questa cultura di compenetrazione, forse è un termine non adeguato, ma comunque questa cultura di compenetrazione che non dico prettamente iberica, però anche abbastanza tipicamente iberica, tra laici ed ecclesiastici, e che appunto mi sembra che possa in qualche misura anche ricollegarsi a quanto diceva per esempio stamattina il professor Bizzocchi. E da questo punto di vista, anche sulla base del filone principale delle mie ricerche, che è completamente diverso, però è proprio ad esempio anche la necessità di non creare a prioristicamente degli schieramenti compatti e contrapposti, anche ad esempio tra spagnoli e lombardi, no? E lo stesso tra laici ed ecclesiastici. Ci sono ad esempio le relazioni tra il Cattaneo e il Borromeo sono significative da questo punto di vista. Il Cattaneo è uno dei due senatori appositamente preposti alla tutela della giurisdizione scusate, della giurisdizione regia, e nonostante questo il un figlio del Cattaneo e un nipote del Cattaneo ricevono pensioni e comunque sono collegati all'entourage del Borromeo, ecco. Quindi vi è tutta una serie di imbricature, di compenetrazioni che creano secondo me una fluidità che è quella appunto concreta, che non vuol dire d'altro canto che non esista anche la dimensione Stato-Chiesa, ecco. Ecco, io direi che questi diversi livelli interagiscono, non annullandosi l'un l'altro. Ecco, quello che ritengo auspicabile è che proprio si cerchi di leggere la complessità di questi livelli e di vedere in che misura l'uno influisce sull'altro o al contrario l'uno si sviluppa indipendentemente dall'altro. Ecco, non so se entro certi limiti ho risposto a quello che lei mi chiedeva, ecco. Certo. Ecco, appunto, proprio per concludere, è significativo come alcuni di questi personaggi arrivino a occupare posizioni dal punto di vista ecclesiastico di notevole importanza, inquisitore generale, arcivescovari tra i più importanti della penisola iberica e poi posizioni nel servizio laico altrettanto se non più importanti. Quindi ecco, direi proprio che l'una carriera sembra quasi sostenere l'altra entro certi limiti, ecco. Secondo, solo una, siccome mi ha tirato in ballo un paio di volte, io ho semplicemente detto che ero ben felice di questo intervento perché permetteva un confronto, una comparazione utile. E come ultima postilla, dopodiché lascio la parola al nostro Presidente, sono felice che Rizzo abbia usato il termine di visita come strumento di governo, che poi è il titolo dell'intervento fatto al Concilio di Trento in Moderno da Cecilia Nuvola e da sottoscritto, ma solo questo. Comunque il convegno non è finito, quindi questi problemi ultimi che ha sollevato Rizzo, penso che domani ci sarà altre possibilità di sentire voci nuove.